Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Torna a Milano l'evento di riferimento per il consumo critico e gli stili di vita sostenibili. Si tratta di Fa la cosa giusta, in programma dal 18 al 20 marzo. L'occasione per scoprire prodotti, servizi, esperienze fra stand e laboratori, ma anche ristoranti, spettacoli e incontri. L'occasione per noi per parlare di due fra i temi in programma: economia circolare e territori resistenti. Sharing economy alla prova del mercato, tra la sfida della regolamentazione e il valore partecipativo, tra modelli collaborativi e quelli di business. Vi anticipiamo i temi di un incontro promosso da Altro Consumo e Università Bocconi, che parte da un dato su tutti: il 62% degli italiani, pensate, ha partecipato almeno una volta a esperienze di consumo collaborativo, diventando soggetto della sharing economy. Focus sui trend dedicato al fenomeno New Ugly, quando il brutto è più bello del bello. E riflessione finale sul mercato dell'usato, che sfiora ormai in Italia i 38 miliardi di euro. Un evento, un appuntamento che ogni anno da ben 13 edizioni ci invita a fare le scelte più giuste di consumo e di vita più sostenibili a livello sociale e ambientale. È un evento che seguiamo ogni anno, solo il numero dei visitatori testimonia una sensibilità crescente, una consapevolezza sempre più diffusa che ha modificato, sta modificando le abitudini d'acquisto di molti di noi. L'evento è Fa la cosa giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, dal 18 al 20 marzo a Fiera Milano City. Prodotti biologici a chilometro zero, del commercio equo e solidale o cruelty free, moda etica, mobilità a basso impatto, abitare green, turismo sostenibile, design inclusivo, autoproduzione, riciclo e riuso. L'elenco è veramente lunghissimo. Tra le proposte di quest'anno abbiamo scelto di raccontarvi lo spazio dedicato ai territori resistenti. Sono i territori che nel nostro paese sono a rischio spopolamento, zone collinari o di montagna, ma anche periferiche, per le quali è stata ideata una vera e propria scuola del ritorno. Ce ne parla Silvia Passerini, fondatrice della Rete del Ritorno. Abbiamo, come dire, costituito questa rete, che è una rete nazionale, che racconta innanzitutto quello che sono i territori marginali nazionali, quindi a rischio di desertificazione sociale, che corrispondono più o meno al 60% del territorio nazionale. Di questi però abbiamo voluto raccontare e dare più spazio a quello che possono essere invece gli aspetti positivi di questi territori, cioè i ritorni. Cosa si può fare nelle terre marginali? Quali sono i mestieri sostenibili per cui si può ancora vivere nelle territori marginali? Le arti di questi territori, arti che sono molto legate al territorio, quindi sono assolutamente sostenibili. Chi sono i protagonisti di questi ritorni? Ma spesso sono proprio esperienze singole, cioè sono famiglie che tornano per scelta, alcuni sono anche manager oppure anche giovani laureati che dopo un avviamento al lavoro si rendono conto che il loro interesse è altrove e si reinventano. La cultura è fondamentale, cioè la consapevolezza, quindi è un'agricoltura, è un ritorno a territori marginali, fondamentalmente rurali, ma consapevoli, e questa è la grande forza di questi ritorni. Non è più un'agricoltura subita, dove non c'era scelta, questa volta c'è scelta. Questi territori sono una grandissima risorsa, non solo perché sono territori intonsi, dimenticati dagli anni 50, da quando, diciamo, la popolazione è stata strappata dalle montagne e dai campi per poter andare a lavorare nelle fabbriche, per cui sono territori fermi più o meno a quegli anni, quindi hanno delle potenzialità, diciamo, naturalistiche e paesaggistiche che sono assolutamente notevoli. La tecnologia ancor più va in qualche maniera utilizzata in questi territori che sono isolati, quindi il wifi o quant'altro è qualcosa che mette in relazione i territori più marginali col mondo. Noi abbiamo delle grandi opportunità. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Altro tema dell'edizione di quest'anno, l'economia circolare, riparazione e rigenerazione dei prodotti dunque. Donatella Pavan è la fondatrice di Giacimenti Urbani, una piattaforma che mappa le realtà, le attività per ridurre, riparare, riusare, riutilizzare e riciclare. Io sono una giornalista ambientale e dopo anni in cui ho ricercato nuovi stili di vita, soggetti che si occupassero di sostenibilità e riduzione degli sprechi, ho pensato che era interessante collegarli tra di loro per vedere che una massa critica esisteva, e proprio per ricostruire un po' la filiera del riciclo, del riuso e della riparazione. Giacimenti Urbani raccoglie, mappa online chi si occupa di prevenzione dei rifiuti, tipo chi fa refill dei detersivi o di altre sostanze, chi fa riparazione, che è un tema chiave della riduzione dei rifiuti, chi fa riuso, sia nel senso che vende materiali usati, che riuso creativo perché li trasforma, e chi fa ritiro e riciclo dei materiali. Ad esempio, a fa la cosa giusta, abbiamo il banco farmaceutico che ritira farmaci usati ancora validi, farmaci che magari uno ha in giacenza in casa per qualche motivo, sono ancora intatti e possono essere utilizzati da terzi, li ritiriamo. Abbiamo dei laboratori del vetro dove verranno tagliate le bottiglie, ad esempio della birra, per farne bicchieri. Ci sono mobili in cartone trasformabili. Ci sono laboratori di trasformazione di vari materiali, i teloni dei camion che si trasformano in borse per la bicicletta, si lavora sul riuso del legno, sul riuso della carta che viene trasformata in collane e porta ceneri di carta. Nel consumo critico sta diventando fondamentale il concetto di economia circolare, un concetto che in questo momento è più forte dal punto di vista del consumatore, come abbiamo raccontato finora, parlando appunto di riuso, riutilizzo, riciclo creativo. L'obiettivo è che diventi ugualmente forte di impatto sulle aziende per impostare una produzione circolare, appunto. Questo percorso che cosa racconta? Secondo me questo percorso sta raccontando che noi dobbiamo rifamiliarizzare con il concetto di filiera. Fino a qualche tempo fa pensavamo che quello che trovavamo a nostra disposizione nei negozi, sul mercato, fosse un prodotto a sé stante, che non avesse una storia alle spalle. L'economia circolare invece ci racconta che quel prodotto è frutto di tutta una serie di passaggi che noi non possiamo non tenere in considerazione. Se noi teniamo presente quei passaggi e la destinazione finale di quel prodotto, se quel prodotto inizia a essere pensato anche in funzione della sua dismissione, noi possiamo far sì che quel prodotto, una volta giunto a fine vita, ritorni in circolazione. Il 62% degli italiani dichiara di aver partecipato almeno una volta a esperienze di consumo collaborativo, diventando soggetto della sharing economy. Lo rivela una ricerca condotta da Altro Consumo che il 15 marzo, con l'incontro Sharing Economy e Social Innovation, promosso insieme all'Università Bocconi, vuole fare il punto sull'economia della condivisione, in un momento in cui l'utilizzo delle piattaforme come Airbnb, BlaBlaCar, Uber, Gnammo, solo per citarne alcune, è notevolmente aumentato, e in Parlamento è stata presentata una proposta di legge che viaggia parallelamente al dibattito europeo sulla questione. Marco Pierani di Altro Consumo. Il senso di questo incontro è la nostra grande attenzione a questi fenomeni di condivisione. Basta pensare che il 62% degli intervistati d'Altro Consumo dichiara di aver partecipato a queste esperienze di sharing economy. Noi vogliamo mettere al centro di questo dibattito che avvia il percorso in questo anno sulla sharing economy di Altro Consumo e che avrà alla fine un focus a settembre con il festival il 24 e 25 settembre al Castello Sforzesco. La sharing economy per noi è importante perché il consumatore torna al centro del mercato anche come fornitore del servizio, quello che si chiama il prosumer. E quindi anche come organizzazione dei consumatori ci sentiamo tutte le responsabilità di accompagnare questo percorso. Noi rivendichiamo innanzitutto un diritto dei consumatori a beneficiare dell'innovazione tecnologica. Dobbiamo trasportare i diritti dei consumatori in un mondo che va più veloce, quindi ci teniamo a rivendicarli, ma siamo a favore di questo sviluppo. Quindi appuntamento? Appuntamento il 15 marzo, che peraltro è la giornata mondiale dei consumatori, e noi quest'anno la festeggiamo con la sharing economy in Bocconi dalle 2 del pomeriggio in poi. Sono imperfezione e bruttezza le nuove parole d'ordine dei consumi alla ricerca del diversamente bello. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. In ogni secolo, filosofi e artisti hanno fornito definizioni del bello. Grazie alle loro testimonianze è così possibile ricostruire una storia delle idee estetiche attraverso i tempi. Diversamente è accaduto col brutto. Il più delle volte si è definito il brutto in opposizione al bello, ma a esso non sono state quasi mai dedicate trattazioni distese, bensì accenni parentetici e marginali. Storia della bruttezza, Umberto Eco. Focus sui trend. Sì all'imperfezione e all'effetto incompiuto, sì agli ingredienti meno nobili, alle frattaglie in cucina, sì ai perdenti o presunti tali al posto dei vincenti. Il brutto sostituisce il bello nei consumi, dalla moda al design, passando per la cucina stellata. Il fenomeno New Ugly contagia molti settori. Questo è l'argomento del focus sui trend di questa settimana. Ne parliamo con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Ciao Paolo. Ciao Maria. Allora, da dove vuoi partire? Allora, partiamo quasi dalla cronaca, nel senso che si sono concluse da poco le sfilate di Parigi, le sfilate di Milano, e si è fatto un gran parlare, soprattutto per quello che riguarda le passerelle francesi, del nuovo designer di Balenciaga. Sappiamo tutti che Balenciaga è un marchio storico, addirittura Christian Dior diceva che Balenciaga era il maestro di tutti loro, quindi insomma un grandissimo couturier, un grandissimo sarto, uno che sapeva fare delle costruzioni piuttosto complesse, chiaramente nell'orizzonte di una bellezza perfetta. Oggi invece il nuovo head designer, il nuovo direttore creativo è Demna Gvasalia, che arriva da un percorso piuttosto underground, da questo strano e misterioso collettivo che si chiama Vetements. Fatto sta che Gvasalia nella sua prima collezione per Balenciaga ha presentato, possiamo dirlo, delle donne brutte, truccate in maniera da essere quasi svilite, con degli occhialoni, con dei capelli attillati al punto da sembrare addirittura sporchi, con degli abiti, con delle forme francamente che hanno polarizzato moltissimo. Alcune persone hanno trovato queste forme estremamente sperimentali e riuscite, altri hanno detto oddio mio, dove stiamo andando, perché si tratta di forme che non valorizzano il corpo, di forme quasi cubiste, no? Proprio come Picasso distruggeva il corpo, Gvasalia lo ricostruisce, ma non rispettando i canoni naturali e i canoni dell'eleganza e della bellezza classica. Quindi insomma anche lì si è iniziato a parlare di un new ugly, come dire, il brutto e il nuovo bello, con tutti i punti di domanda del caso. Quasi casuali queste forme, ho cliccato un po', ho visto un po' di immagini e poi ho letto, ha saputo unire lo streetwear all'alta moda. Esatto, e sappiamo benissimo che lo streetwear, tutte le culture underground, dal punk se vogliamo in su, sono tutte votate alla rottura dei canoni, al contrapporre la bellezza tradizionale invece a un tipo di estetica che magari usa il brutto per aprire la strada a nuovi mondi. Ecco, possiamo dire in un certo senso che da molte parti nel mondo della moda, anche quella progettata più alta, siamo un po' di fronte a una sorta di quinto quarto, no? Cioè ci troviamo di fronte a un recupero di cose, di forme, di dimensioni, di atmosfere che di solito vengono scartate. Ecco, adesso stanno tornando protagoniste. E tra l'altro questo recupero dei tagli meno nobili, insomma, dalla cucina, dalla macelleria, è presa l'espressione, si ritrova anche proprio nella cucina addirittura stellata. Certo, per perché comunque questa idea di recuperare l'interiora, di recuperare anche i tagli appunto meno nobili ma molto saporiti, diciamo tipico, un esercizio tipico della cucina povera, sta entrando invece anche nelle cucine dei grandi chef, ma anche delle magari trattorie d'avanguardia fatte da giovani creativi. Ad esempio a Roma, che tradizionalmente sappiamo, la cucina romana tradizionalmente è fatta di coratelle, animelle, pagliata eccetera, sfrutta molto, no, il quinto quarto, quindi ci sono a Roma, si stanno vedendo molte di queste trattorie sperimentali, ma anche non solo a Roma, pensiamo ad esempio a Diego Rossi che con le antiche contrade di Cuneo diciamo ha fatto grandissimo successo, parliamo di uno chef comunque con una stella Michelin, ha fatto grandissimo successo con un panino che si chiama letteralmente la figata. Vi lascio immaginare con quale parte della mucca è fatto questo panino. Lasciamo a tutti la ricerca allora in rete per trovare i particolari su questo panino. Dicevi anche nella ristorazione sta esplodendo questo fenomeno. Esatto, ma anche andando a Londra, che sappiamo essere una culla di sperimentazioni estreme tra arte e anche cucina e comunque altri settori, il Tramshed è una vecchia stazione dei tram che si trova a Shoreditch, quindi uno dei quartieri più del momento a Londra. All'interno troviamo una delle famose mucche in formalina di Damien Hirst, quindi insomma un cadavere in formalina sostanzialmente nel centro del ristorante. Se voi ordinate ad esempio un pollo arrosto, vi portano un pollo intero a gambe per aria con un coltello piantato nello stomaco, quindi sembra la scena di un omicidio. Beh, il ristorante perfetto per ogni vegano, diciamo. Credo che se ne terranno bene alla larga i vegani da quel ristorante, però insomma un'operazione di stampo artistico, certo. Ancora una volta, se vogliamo, in un certo senso l'abbiamo visto nella moda, nella cucina, questo succede anche in altri ambiti, c'è una sorta di azione alla Duchamp, no? Come se avessimo la possibilità di avere la Monna Lisa perfetta, però gli facciamo i baffi e il pizzetto, quindi un piccolo o grande gesto punk, se vogliamo, ma anche concettuale proprio da prime avanguardie storiche. Tu facevi riferimento ad un'estetica proprio diversa, si ritrova anche in architettura dagli esempi che mi hai mandato. Esatto, parlando proprio di sfregio, il Manakon di Bangkok, che sarà concluso tra qualche mese, è il grattacielo più alto della città, chiaramente con gli appartamenti più cari della città, si parla comunque di un palazzo di 77 piani che è visibile da tutta la città. Ha una forma piuttosto semplice perché è un parallelepipedo, semplicissimo, se non che è attraversato da una specie di corrosione che sale lungo tutta la lunghezza del palazzo, una sorta di sfregio a grandi pixel che sale lungo tutta la lunghezza del palazzo. Il risultato qual è? Sembrerà incompiuto e rovinato anche nel momento in cui sarà finito e perfetto. Sembra quasi più una scultura che non un grattacielo, ma parliamo di un elemento che va a definire in maniera radicale lo skyline di una città gigantesca come Bangkok. Come sempre le immagini sulla nostra pagina Facebook, mi ha fatto impressione questo rendering, Paolo, sembra quasi rosicchiato appunto. Certo, sembra uscito dal film Pixel, sì. Non so se ricordi, il film dell'anno scorso, sì. In cui ci sono i videogiochi che entrano nella realtà e trasformano tutto in pixel e se lo mangiano. Ecco, sembra che sia passato Pac-Man e che si sia rosicchiato il grattacielo. Due parole per concludere, provocazione, sperimentazione o che cosa, Paolo? Guarda, è un gesto profondamente concettuale, profondamente artistico, estremamente rischioso perché, come dicevo prima, polarizza. Tutte le volte in cui noi andiamo a toccare i canoni classici della bellezza, ci troviamo di fronte a un momento molto interessante, ma ci troviamo anche di fronte al grandissimo rischio di fare dei disastri. Vedremo tra qualche mese in che direzione va questo fenomeno. Io sono abbastanza pronto a scommettere che ci saranno sicuramente dei casi di successo in questo ambito, laddove ci sia una grandissima cura del dettaglio, in cui a un certo punto si svela il trucco, in cui è chiaro che si sta giocando, in cui è chiaro che c'è un grandissimo lavoro per ottenere questa bruttezza. Certo, e l'invito anche a vedere le cose ovviamente da un punto di vista diverso, da un lato diverso. Certo. Grazie Paolo, grazie a Ferrarini, te. A presto. A presto, grazie. Il consumautore. Tutti noi ormai siamo diventati consumautori, ecco perché abbiamo voluto chiamare così questa rubrica, uno spazio prezioso di analisi e di riflessione con il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa e a tutti gli ascoltatori. Oggi lo spunto, me lo hai anticipato, è un tema che mi sta molto a cuore, parla della riscoperta di un'abitudine che è un fenomeno di costume e di mercato insieme, l'usato, il seconda mano. Sì, il seconda mano, qui mi riferisco a una ricerca appena presentata da Doxa per Subito e devo dire che sono dati veramente interessanti. Ormai il PIL legato al mondo dell'usato è di 38 miliardi nel nostro paese e più del 38% ormai prodotto online. Se poi ci spostiamo ad analizzare i più giovani, ormai più della metà di questo movimento legato alla seconda mano e all'usato è online. Quindi questo vuol dire che usciamo dalla classica visione un po' pauperista o neopauperista della seconda mano, dell'usato contro il consumo. Ci sono ragazzi che acquistano e vendono la propria bicicletta ogni 6 mesi e parliamo di biciclette anche di altissima gamma e lo fanno in fondo muovendosi nel mondo dell'usato. Fino a poco tempo fa su questo tema citavo sempre le parole di un ospite, un imprenditore del settore che in un'intervista mi aveva detto: alla gente scettica sull'usato dico sempre che nei grandi alberghi, negli alberghi 5 stelle lusso, anche le posate, le lenzuola, gli accappatoi sono stati usati da qualcun altro. Ecco, mi è sempre sembrata un'immagine molto efficace. Oggi ormai le resistenze sono cadute comunque. Sono cadute perché, come sempre, abbiamo superato la fase ideologica, non c'è più una piccola parte che combatte e proponendo l'usato come bandiera contro il sistema dei consumi, ma abbiamo persone più intelligenti che capiscono quante opportunità ci possano essere da quella che Rifkin chiama la società dell'accesso e non più del possesso. Quindi usare qualcosa e farlo per un tempo determinato entra, diciamo, nella visione normale, soprattutto delle giovani generazioni, che poi portano dietro anche i genitori e tutta la famiglia. Ecco, quindi l'usato non è più indice solo di risparmio o di mancanza di risorse, a volte è proprio il contrario, è un'opportunità per sperimentare cose nuove. E se in questo percorso aggiungiamo anche il tassello della produzione, arriviamo al modello dell'economia circolare di cui abbiamo parlato anche nella prima parte, un tema al quale anche tu hai fatto riferimento più volte, che è il vero modello del futuro. È il vero modello perché si possono rigenerare ad esempio materiali che già sono stati prodotti, ma lo si può fare in modo creativo, quindi si possono creare nuovi mondi partendo da ciò che già abbiamo e questo è sicuramente un salto di paradigma che anche solo 10 anni fa non era immaginabile. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.